Radio 24 Reportage. Vacanze verticali. Viaggio tra valli e rifugi nell'estate Covid. Di Teresa Trillò. La montagna sarà la protagonista dell'estate, almeno nelle attese. Passeggiate in valli e in alta quota, arrampicate, percorsi storici sulle tracce della Grande Guerra, vulcani come l'Etna o il Vesuvio attirano da sempre gli amanti dei grandi spazi e della vita all'aria aperta. Quest'anno, dopo settimane trascorse in casa per fronteggiare l'epidemia scatenata dal coronavirus, la montagna appare come una destinazione dove riappropriarsi di una vita più o meno normale. Regole, mascherine e gel disinfettanti sono infatti arrivati anche nei rifugi, dove si approda dopo camminate, scalate e traversate in quota. Il Club Alpino Italiano stima un aumento delle presenze tra il 5 e il 7%, numeri decisamente rilevanti per la montagna, dice il presidente Vincenzo Torti. L'associazione ha stilato un decalogo post-Covid per tornare nei rifugi in sicurezza. L'imperativo è prenotazione obbligatoria per il pernottamento, laddove sarà possibile dormire in quota, e gite alternative alle classiche mete. Noi abbiamo cercato di prestare la massima attenzione a chi la vuole frequentare e a quelle che sono le possibili mete, cioè i rifugi alpini. Allora, per quanto riguarda la frequentazione, abbiamo ricordato a tutti che andranno rispettate delle regole di distanziamento e con l'adozione di dispositivi, e soprattutto che non andrà mai dimenticato che la montagna richiede attenzione e quindi prudenza. Chi ha delle capacità deve cercare di scegliere degli obiettivi, quindi degli itinerari, che siano compatibili con la propria capacità e la propria esperienza, avvalendosi degli accompagnatori professionali o volontari, qualora volessero cimentarsi in qualche obiettivo un pochino più ambizioso. Per quanto riguarda le mete e quindi i rifugi, che sicuramente saranno estremamente ambiti perché offrono accoglienza, oltre ad essere dei riferimenti culturali di informazione e punti di possibile soccorso. Ecco, i rifugi avranno delle restrizioni legate alle nuove modalità di frequentazione, quindi numeri ridotti, e conseguentemente abbiamo invitato tutti coloro che dovranno accedere ai rifugi a prenotarsi, a rispettare scrupolosamente le istruzioni che verranno loro date nel momento in cui si avvicinano al rifugio. Ricordando che il gestore è un imprenditore, ma è anche un'espressione culturale della montagna, e che nei limiti del possibile cercherà di rendere possibile e gradevole il loro soggiorno in quel particolare punto della montagna. Si userà un pochino di più la tenda quest'anno, Presidente? Quella delle tende è stata un'idea anche per aggiungere un pizzico d'avventura alle montagne. Chi ha esperienza di grandi cammini, di grandi itinerari, la tenda l'ha portata sulle spalle per centinaia e centinaia di chilometri. In mancanza di posti all'interno di alcuni rifugi dove normalmente gli ospiti vengono collocati in grandi stanzoni e dove il distanziamento imporrà grossi limiti numerici, abbiamo detto: ma qualcuno porti tranquillamente la sua tenda a due posti nello zaino, arriverà al rifugio, potrà beneficiare della cena, dell'ottima colazione, dei servizi igienici, e invece che dormire in cameroni che non sono più accessibili, avrà la sua tenda fuori e si addormenterà sotto le stelle a 2500 metri di quota. Ai piani di Bobbio, in Valsassina, il rifugio Lecco, gestito dalla famiglia Rupani, ha riaperto i battenti dopo il decreto del Presidente del Consiglio che fissava le regole per la ripartenza. Ristorante e pernottamenti sono organizzati nel rispetto del distanziamento sociale, racconta Eugenia Rupani. Le sanificazioni dei locali sono fatte più volte al giorno, tanti gli escursionisti che salgono per una giornata all'aria aperta. Noi abbiamo aperto il rifugio il 23 di maggio, seguendo tutte le disposizioni del decreto del 18 maggio e le linee direttive del CAI centrale, quindi abbiamo fatto in modo che ci fosse il distanziamento tra i tavoli piuttosto che il gel sanificante, le mascherine e tutto quello che serviva per poter aprire. Per quanto riguarda la ristorazione, non notiamo particolari problemi perché comunque la gente, potendo mangiare anche fuori con le belle giornate, arriva parecchio. Il problema riguarda il pernottamento. Al momento non abbiamo tantissime prenotazioni, forse perché la gente ha ancora un po' paura a dormire fuori casa. I rifugi e i bivacchi CAI sono 774, disseminati in tutte le montagne della penisola. Per garantire un'estate in sicurezza, il Club Alpino Italiano ha pensato di dotare le strutture di un kit anti-Covid. Il primo è arrivato al rifugio Quintino Sella, sul Monviso. Un aiuto importante, dice Alessandro Tranchero. La sua famiglia, da 44 anni, gestisce la struttura dedicata al fondatore dell'associazione. Ci hanno dato un ozonizzatore che usiamo per un'ulteriore sanificazione degli ambienti del rifugio. Poi ci hanno dato un termometro, un termoscan e un saturimetro per poter fare, quando necessario, una valutazione rapida ed efficace dello stato, di un primo stato di salute delle persone che entrano in rifugio. E poi ci hanno dato una piccola dotazione di mascherine, molto gradita, mascherine di tipo sportivo, pensate, dal produttore per un'attività intensiva. Come vanno le prenotazioni luglio-agosto da voi quest'anno? Ma non stanno andando male, sicuramente su volumi ridotti rispetto alla media, però sono anche in qualche maniera confortanti rispetto alle nostre aspettative. Rimane il fatto che i rifugi sono una macchina complicata in generale e, a prescindere, molto onerosa da tenere in funzione. Quindi in questo momento siamo confortati dal fatto che comunque vediamo che la gente ha voglia di muoversi nonostante tutto, e anche dal fatto che comunque la gente in generale si preoccupa e fa attenzione. Dall'altra parte siamo preoccupati perché comunque sarà molto molto difficile a fine stagione far quadrare i conti. Non solo kit anti-Covid. In Alto Adige, ad esempio, la provincia autonoma di Bolzano ha deciso di fare il tampone a tutti i lavoratori del settore alberghiero. Stiamo testando 22.000 persone, racconta l'assessore al turismo Arnold Schuller. Garantiremo così massima sicurezza a ospiti e collaboratori. Qui il turismo ha sofferto. Il settore ha perso 1 miliardo tra marzo e giugno, spiega Schuller, mentre il 2019 ha registrato 32 milioni di pernottamenti. Ora si guarda al futuro, anche se non è facile fare stime. Sono ottimista per l'estate, ma soprattutto anche per l'autunno, che riusciamo il più presto possibile di raggiungere una certa quota. Non diventa più quello che è certo una situazione record, ma almeno di garantire una certa cifra di pernottamenti fino a fine anno. Anche più a sud, in Appennino, sotto la cima del Gran Sasso, Luca Mazzoleni, gestore del rifugio Franchetti, trova complicato fare previsioni sulla stagione estiva 2020, ma resta ottimista perché, dice, chi ama la montagna non tradisce. La situazione in Centro Italia sta stabilizzandosi, diciamo così, con le attuali norme delle regioni. La maggior parte dei rifugi ha riaperto, anche se non tutti al 100%. Il rifugio Franchetti, come il Duca degli Abruzzi, aprono solo per il ristoro e il servizio di bar, anche se poi rimangono aperti anche la notte, non sono aperti per i pernottamenti, perché in genere si dorme in camerata e il rifugio è, al momento non è la cosa migliore, diciamo così. Altri rifugi che hanno soluzioni diverse, quindi magari camerette più piccole, cercano di far funzionare anche il pernottamento, però ecco, è un'estate un po' di passaggio, diciamo. Come prevedete che andrà la stagione quest'anno? Giugno è iniziato abbastanza fiacco, per finire con l'ultimo fine settimana del ponte che c'è stato anche a Roma, un po' più di movimento, quindi cerchiamo di essere ottimisti. Se non ci sono recrudescenze nell'epidemia, lavoreremo, certo non lavoreremo come gli anni scorsi, ci sarà 40-50% in meno, non è difficile stimare cosa perderemo con i pernottamenti, però la gente in montagna è fedele e ha voglia di andarci, quindi credo che, tempo bello e Covid permettendo, almeno ristoro e bar lavoreranno alla grande. Nella punta dello stivale, tanti siciliani scelgono l'Etna per una sgambata dopo settimane di lockdown. All'appello però, dice il presidente del parco, Carlo Caputo, mancano ancora i turisti. Gli escursionisti sono in crescita rispetto anche a quelli che sono i dati degli altri anni, ma parliamo di escursionisti che siciliani, ecco, gente che abita qui vicino, che magari dopo essere stata chiusa, aver vissuto questo virus a casa per tutti questi mesi, adesso ha voglia di uscire. Però parliamo di un escursionista fai da te, che non si appoggia a delle guide autorizzate, non si fa seguire. Quello che manca oggi sul vulcano, o almeno sono dei dati delle unità poco significative quelle presenti, è il turista che porta il valore aggiunto, il turista che viene da fuori. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.